Piazze rinascimentali, XV-XVI secolo. La piazza del Campidoglio, il cuore di Roma, è un progetto del 1536 di Michelangelo. È un esempio perfetto di piazza del Rinascimento. Dopo una lunga scalinata, c'è un pavimento con motivi geometrici di Michelangelo. In fondo c'è il Palazzo Senatorio, che è la sede del comune, cioè il governo della città. A destra c'è il Palazzo dei Conservatori e a sinistra il Palazzo del Museo Capitolino. In questa piazza ci sono anche varie statue di grande bellezza.